Ma comunque allora si può mettere anche il bollino con le 3A. A seconda, insomma, del grado di accessibilità della pagina, si può esporre il primo, il secondo o il terzo bollino. Come spiegato sotto, chi soddisfa tutti i requisiti di accessibilità di priorità 1 può esporre il logo con livello A. Chi soddisfa 1 e 2 espone i loghi con le doppie A. Chi li soddisfa tutti e tre espone le triplici, le 3A. Questo così per spiegare quello che magari certe volte vedete nelle pagine web quando accedete. E sotto nel footer della pagina, nella parte bassa, certe volte voi trovate questi bollini. Questi bollini hanno questo significato, che sono stati rispettati questi principi di accessibilità. La legge italiana è l'accessibilità. Allora, c'è una legge italiana che è detta comunemente legge Stanca del 9 gennaio 2004 che definisce chi deve a mettere in pratica queste norme, chi le deve rispettare e quali sono le norme di cui uno deve tener conto, perché avete visto che ce ne sono di vari tipi. Allora, ad osservare la legge devono essere, secondo la legge Stanca, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e economici, le aziende private concessionarie di servizi pubblici, gli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, le aziende di trasporto e di telecomunicazione, le aziende municipalizzate regionali e le aziende appaltatrici di servizi informatici. Insomma, tutte le aziende che sono in relazione col pubblico dovrebbero avere queste caratteristiche, osservare questi punti, questi requisiti. Se uno di questi enti, di queste aziende, ha osservato questi requisiti, può fare un'autocertificazione, cioè spedire al CNIPA, che è l'ente che si occupa di valutare queste autocertificazioni, spedire un'autocertificazione dichiarando che lui, mettendo anche con le motivazioni, cioè quali sono i punti che ha rispettato, come li ha rispettati, in quale misura, e se questo ente CNIPA vede che queste valutazioni sono corrispondenti alla realtà, gli dà, può esporre nel suo sito questo piccolo logo, questo marchio, che è proprio per dimostrare la ottenuta validazione dell'accessibilità del sito. Oh, poi qui invece con noi avevamo costruito un sito di prova per un'amministrazione scolastica, per una direzione scolastica e avevamo tenuto conto soprattutto di questi punti, che fosse percepibile, usabile, robusto, operabile, in una sigla puro e avevamo messo, ecco, questo era un sito di prova, diciamo, per una direzione scolastica, l'avevamo chiamato Istituto Comprensivo L'Aquilone e sotto avevamo messo questo loghetto puro che voleva dire che era un sito che poteva essere percepibile, nel senso che tutti potevano ricevere il messaggio che trasmetteva, che era usabile, nel senso che si capiva quello che trasmetteva, robusto perché era stato scritto con formati standard o aperti, tipo HTML, PDF, XML, JPEG. Operabile perché si possono usare per accedere a questo, per navigare fra le pagine, si possono usare dei tasti anziché il mouse, perché molti possono avere problemi con il mouse. Ecco perché in un sito accessibile è bene che ci siano delle chiavi di accesso ottenibili da tastiera, cioè digitando sui tasti bastano due dita, chiaramente uno può navigare, invece col mouse ci vuole una maggiore motricità fine. Ecco, Joomla 1.5 FAP sarebbe il Joomla for all people, cioè per tutta la gente, il Joomla accessibile. Ed è un CMS che delle Access Key, che è appunto la possibilità di navigare usando solo due dita, usando i tasti della tastiera. ha dentro un plugin HTML, per cui ha un codice HTML molto pulito, perché questo plugin, casomai ci fossero del codice da pulire, lo sistemerebbe. È un template che è XHTML 1.0 strict e alcune piccole patch al core, cioè il core di Joomla, che è il codice base, è stato modificato proprio per garantire una maggiore accessibilità. Allora, noi abbiamo, questo è stato è provvisto questo Joomla FAP, di un template accessibile che avete visto anche prima, che è senza tabelle, e si può scegliere nel layout, se avere un layout in bianco e nero oppure a colori, per chi ha problemi di vista c'è anche questa possibilità. Si possono ridimensionare i caratteri, ci sono varie grandezze di caratteri. E ci sono le scorciatoie da tastiera, la access key, sono usati invece delle tabelle i fogli di stile CSS. Inoltre il layout è semiliquido, cioè si può adattare a quello che è il computer usato, lo schermo del computer usato. Allora, ecco, dove si va a prendere questo Joomla accessibile per inserirlo nel proprio sito che si sta lavorando con Joomla? Allora, non si deve fare un sito ex novo. Noi abbiamo il nostro Joomla, abbiamo già costruito il sito come abbiamo visto prima, siamo già lì, è già pronto, dobbiamo solo fare delle modifiche, dobbiamo portare dei nuovi componenti dentro a questo sito che abbiamo già. I documenti si vanno a prendere a questo indirizzo che vedete lì, che è il sito ufficiale di questo progetto, joomlacode.org, eccetera, joomlafap1, e si scaricano da lì i due componenti che vedete segnati con la freccia, che sono il template accessibile di cui vi parlavo prima e il componente access key, che è quello per avere l'accesso da tastiera. Inoltre bisogna anche scaricare il plugin HTML, quello che rende pulito il codice HTML Purifier, dal sito qui che vedete, questo sito, è quello che vedete con la freccia. Bisogna scaricare quel plugin che è per il PHP 5 ed è proprio per Joomla 1.5. Come si utilizza Joomla FAP? Allora, bisogna aggiornare template e componenti all'ultima revisione. Cioè, prima di installare questi componenti che abbiamo appena visto, il template, l'access key, bisogna aggiornarli, perché molto spesso questi vengono aggiornati nel sito che avevamo. Sì. Sarebbe una specie di hub, il cavo giallo, qual è? È quello tipico dell'internet, quello che veniva vampirizzato per fare i vari attacchi. Non ho presente. Hai primoso il tipo di oltre che viaggiare il cavo parziale. Ma cos'era, un parziale? Sì, è un parziale. Quello che c'è una spina grande così? Il T3? Quello che avrà le prese T3? No, è più grosso. No. Io l'ho letto, ma non l'ho mai visto fisicamente. Non ho presente, sinceramente. Quello si aventava con le vetrine, probabilmente. T3, sì. Ma era quello che faceva degli anelli, se non mi ricordo male. Cioè che tu dovevi chiudere l'anello? No. Sì, mettevi l'anello, mettevi il terminatore. Esatto. Se c'era un anello, non era terminatore. No, o mettevi uno, mettevi l'altro. Eccolo lì.